Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Si conclude con oggi, nella settimana che porta a conclusione il palinsesto ordinario, anche il percorso insieme alla Caritas diocesana di Padova. Ovviamente i temi e gli argomenti relativi alla Caritas rimarranno anche nel corso dell'estate, però non nella forma strutturata di questa rubrica. Ancora ben trovati da Mirko Cavallin. Diamo una breve anticipazione, poi ne parleremo meglio nei prossimi giorni, del rapporto 2014 dell'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, che sarà presentato ufficialmente venerdì 26 con l'intervento di Francesco Marsi, corresponsabile dell'area nazionale di Caritas italiana. Questo report è uno strumento che rende conto a tutta la cittadinanza il lavoro che ogni giorno viene svolto dai volontari della Caritas. È anche uno strumento per gli operatori dei consigli pastorali parrocchiali e dei coordinamenti pastorali vicariali per riflettere sul proprio territorio in modo da stimolare le comunità a vivere consapevolmente e responsabilmente in questo tempo e nei singoli territori. Inoltre è un'occasione per collaborare e interagire con le diverse istituzioni. Questo report nasce dalla raccolta dati del programma Oscar, che è stato adottato da tutte le Caritas del Triveneto, una sorta di rendiconto dei servizi diocesani, dal microcredito all'accoglienza agli ambulatori servizi nel territorio. Più spazio in questa edizione ai centri di ascolto vicariale, alcuni hanno già, come sapete, 2 anni di vita e diversi li abbiamo anche ospitati in questo spazio. In questi ultimi mesi, tra l'altro, anche il terzo gruppo di centri di ascolto vicariali, Arcella, Campagna Lupia, Cattedrale, Legnaro, San Giuseppe, Torre, Valstagna e Vigonza, vanno ad aggiungersi a quelli che sono già attivi, dunque sono ormai più di 15. La realtà dei centri di ascolto andrà sempre più consolidata in città. Ad esempio, spiega Lorenzo Rampon, è stata personalizzata la modalità di fare centro di ascolto per rispettare la complessità dei servizi caritativi delle parrocchie cittadine, ma anche all'interno della stessa città di Padova non tutti i vicariati sono uguali. Nei vicariati di Torre San Giuseppe c'è una sperimentazione non con lo sportello d'orario fisso, ma su appuntamento richiesto e concordato delle parrocchie. All'Arcella un altro modello, una sorta di sportello virtuale dove si farà esclusivamente confronto quindicinale in equipe per la discussione delle situazioni più critiche. Con quest'estate dunque sono 18 i centri di ascolto vicariali aperti con 30 sportelli sul territorio. Il centro di ascolto diocesano invece, non per scelta ma per necessità, ha svolto in questi ultimi anni un ruolo di supplenza nei confronti delle persone in difficoltà che abitano nelle parrocchie. Ogni comunità però è chiamata a recuperare e potenziare questa attenzione specifica ai propri fratelli in difficoltà. Questo non significa che deve essere in grado di rispondere a tutti i problemi, ma si lavorerà sempre in logica di rete. Dunque, questo per quanto riguarda appunto i centri di ascolto vicariali. I dettagli appunto sul rapporto 2014 dell'Osservatorio della Povertà e delle Risorse li daremo nei prossimi giorni dopo la conferenza stampa. Queste prime anticipazioni le ho estrapolate dal numero che sarà pubblicato domani del settimanale La Difesa del Popolo, dal quale traggo anche un'altra segnalazione. Dal prossimo 29 giugno, lunedì, fino alla metà di luglio, l'MPX, la Monticella Pio X di Padova, ospiterà una mostra, La strada verso casa, una raccolta di scatti fatti da 5 fotografi di eccezione: Angelo, per gli amici Ancelo, Mohamed, Narciso, Gianfranco ed Enzo, ospiti del progetto Housing First, che mira all'inserimento sociale e all'autonomia abitativa di persone senza dimora. Sono foto che raccontano una storia. La Caritas diocesana ha definito così questo progetto. Concretamente significa dare una casa e affiancare queste persone in un percorso di accompagnamento. L'esperienza è avviata in 4 appartamenti, uno a San Bellino, uno alla Santissima Trinità e 2 al Carmine. Ai 5 ospiti è stato proposto di partecipare al progetto Photo Voice del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. Attraverso la macchina fotografica hanno rappresentato la realtà vista con i loro occhi, dando così voce alle loro loro reali esigenze. Allora, questa selezione di scatti sarà visibile dal lunedì 29 giugno fino alla metà di luglio all'MPX Multisala Pio X di Padova. Chiudiamo allora questo nostro appuntamento settimanale con la Caritas. Ringraziamo innanzitutto il direttore della Caritas di Padova, Don Luca Facco, che ha voluto la ripartenza e il rilancio di questa rubrica qualche mese fa, una rubrica che ci impegniamo ovviamente a riproporre anche con il prossimo palinsesto, che ripartirà alla metà di settembre. Ringraziamo appunto Don Luca, Giorgio Pusceddu, che è stato il contatto anche con diversi volontari e coordinatori della Caritas nei vicariati e nelle parrocchie, tutte le persone che nel corso delle settimane abbiamo interpellato. Un grazie anche ai colleghi della Difesa del Popolo per la condivisione dei materiali e degli spunti di approfondimento. Ritrovate tutte le nostre puntate sul sito bluradioveneto.it, sezione podcast, e allora con questa rubrica ci risentiremo dopo l'estate. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.